Tempo di sport con Carlo Genta. Buongiorno a tutti. Fa un caldo della Madonna, e non solo per il sole, non solo in senso reale ma anche in senso figurato. L'Italia va a rotoli, l'economia a picco, si parla di austerity e di recessione. Sembra essere tornati indietro di 35 anni o giù di lì. Mancano solo le targhe alterne e la scala mobile. Cosa ne dite? Il resto c'è tutto, compreso lo sciopero, che però nel 2011 è diverso. A scendere in piazza non sono le tute blu ma le magliette colorate. Non è lo sciopero dei pagliacci ma quello dei calciatori. Adesso anche i bagnini di Rimini hanno rinunciato alla loro mobilitazione. Restano soltanto i calciatori. A tutti non di me, perché? Perché? A tutti non di me, perché? Perché? A tutti ritorno di me. Qui, Guagliù, vi siete perduti la partitura? No, cavaliere, ci dispiace, ma è mezzanotte. E che significa? Tutte le sere a quest'ora scocca a mezzanotte. Ma questa sera comincia lo sciopero generale. Lo sciopero? E che roba è? Roba casa mangia? E adesso ve lo facciamo vedere noi. Sciopero, Guagliù, è sciopero! Non faticate più, sciopero! E ora basta. È lo sciopero dei mestieranti del pallone, o meglio, forse, come scrive Maurizio Crosetti, penna illustrissima di Repubblica sul giornale di oggi, dando una bella spallata alla demagogia, la serrata dei padroni. Maurizio, buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi. Ma sì, effettivamente l'uso di questa parola sciopero è in questo caso... forse va così un po' calibrato, perché in senso proprio tecnico non è giusto usarla questa parola, perché lo sciopero insomma è un rifiuto dal prestare, rifiuto riconosciuto a un diritto sancito dalla Costituzione, nel rifiutare una prestazione di lavoro, e quindi non si lavora, non si viene pagati, non si produce un servizio, un pezzo di ferro, una pentola a pressione, e non si viene pagati e finisce lì, quindi alla prossima pentola a pressione. Invece qua il controllore di volo dice no, oggi gli aerei non partono ma partono domani, e non è, a parte che il calcio non è un servizio pubblico, quindi è uno slittamento in sostanza, non è uno sciopero. Però certo, a livello popolare l'impatto è formidabile, insomma la vostra introduzione chiaramente un po' ci ha marciato, ma è giusto, giornalisticamente anch'io nel mio commento di stamattina ho usato dei toni piuttosto carichi, dopodiché riconosco che come ho anche scritto, il diritto a un contratto collettivo in un paese democratico prescinde da quanto si guadagna, certo. No? Dalla busta paga del 7,40, non si deve lavorare se non c'è il contratto. Dopodiché lo dico da giornalista, abbiamo lavorato per 4 anni senza il contratto collettivo, certo. E siamo comunque noi giornalisti degli assoluti privilegiati, noi, cioè, stiamo ad altre categorie come i calciatori stanno a noi, quindi sia ben chiaro, lavorare è ancora un'altra cosa. No, ma però dici giustamente a prescindere da quanto si guadagna ci sono dei diritti che vanno riconosciuti. La sensazione è, Maurizio, come scrivi tu, adesso c'è quest'ultima mossa di Abete, l'abbiamo sentita anche prima nel giornale radio, questo fondo di accantonamento di 20 milioni a garanzia di eventuali contenziosi sul contributo di solidarietà, che peraltro non è ancora legge, come sappiamo, è tutto vario ed eventuale. Il problema vero mi sembra quello delle rose e dei fuori rosa, e questo mi sembra un diritto sacrosanto dei giocatori. La sensazione è che, come scrivi tu, i proprietari, i ricchi scemi, tra virgolette, si sono fatti furbi e cattivi, lo scrivi tu sul commento, a chiusura del commento di oggi, e probabilmente sanno anche che l'autogol mediatico in questo momento lo rischiano soprattutto i loro dipendenti. Sì, loro sono stati abilissimi nel mettersi in questa posizione di forza, cioè loro praticamente lasciano che l'impopolarità, la responsabilità e il peso di questa scelta ricada tutta sulle spalle dei giocatori, i quali non chiedono soldi ma un diritto riconosciuto. Non solo, ma è ancora più subdolo quello che stanno facendo i presidenti, perché in effetti i calciatori non hanno mai detto che non pagheranno il contributo di solidarietà, è come se lo dicessi io, è come se lo dicessi tu, ma non è stato ancora nemmeno stabilito. Certo, noi abbiamo un contratto lordo e lo stipendio è proprio facile da andare a pescare, ci sono calciatori che hanno ancora uno stipendio nel cui contratto si indica solo in netto, e allora lì è un pochino più ambiguo. Ma al di là di tutto questo, ha ragione il sindacalista dei calciatori Damiano Tommasi, è un pretesto, perché l'oggetto del contendere è, appunto, come dicevi tu, la questione dei fuori rosa, ma io direi bisogna spingerci nell'analisi ancora oltre, leggere tra le righe, perché la sottigliezza di alcuni presidenti, 18 su 20, quasi tutti, è quella di voler di fatto esautorare Abete, la Federcalcio, da ogni potere. Loro non solo non vogliono giocare, ma vogliono che sia riscritto forse l'intero sistema, l'intera gestione del sistema calcio. La vera sberla in faccia ieri l'ha presa Abete, che poveretto ha fatto questa volta sì tutto quello che poteva, una sì. mediazione, poi certo la Federcalcio, come dire, non è l'organo di potere economico del calcio, questa è la Lega, ma la Confindustria del pallone è la Lega, non certo. è la Federcalcio. Però insomma questa volta secondo me i presidenti hanno fatto davvero una mossa molto abile, pagando pochissime conseguenze, perché se ci sarà davvero questa astensione, questo slittamento, oppure vabbè, usiamo la parola impropria, questo sciopero, tutti ce la prenderemo con il calcio. Un acuto osservatore come Massimo Gramellini, anche lui questa mattina casca nella trappola della demagogia. Massimo è un amico, però anche lui scrive: scioperiamo noi contro il sì. calcio, no? Questi miliardari che non è vero che sono dei bambini sui quali proiettiamo i nostri sogni di infanzia, ma sono dei personaggi ricchi, cinici. Sì. Ma non è, questa volta non è così, mi spiace, questa volta il calciatore ha ragione. Cioè, sì, è sempre difficile dirlo, perché sono privilegiati, si comprano la barca. Perché possono essere antipatici e attirare le nostre invidie, comprese le mie, del tutto dichiarate. Invidiamo noi, noi giornalisti, che siamo per lo più una categoria di frustrati. Sì. Invidiamo i calciatori ricchi, tutti abbiamo provato a giocare a pallone e non eravamo capaci, quindi i calciatori li raccontiamo ma li invidiamo. Allora, questa volta hanno ragione loro, mi spiace dirlo. Sì, non c'è dubbio, a prescindere da quanto guadagnano, come dicevi tu, i loro diritti ce li hanno ed è giusto che li facciano valere. E quindi domenica, caro Maurizio, andiamo, invece di raccontare le partite, io e te andiamo sul gommone di Leonardi. Sì, potrebbe essere, io vado in bici. Tu vai io in bici. Lavoro, perché anche quando non c'è il campionato, come sai benissimo anche io pure qui, certo, dalle le 5 radio, alle 7 i giornali, le televisioni mica smettono. Poi insomma il calcio non è un pubblico servizio, si può vivere una domenica senza pallone, è molto più grave quando sciopera anche, ne so, la sanità, i trasporti, la scuola. Allora lì sì che uno sciopero diventa qualcosa che ricade su tutti e danneggia molti, anche se, ripeto, è sempre uno strumento di rivendicazione di diritti riconosciuto, quindi dalla legge e dalla Costituzione, quindi va rispettato, anche se, lo ripeto, questo non sarebbe uno sciopero. Grazie Maurizio, abbraccio, ti ringrazio. Ciao. Grazie davvero Maurizio Crosetti. 800 24 00 24 per far sentire la vostra voce, messaggi 349 238 6666. Noto che, ma come era ampiamente prevedibile, nella demagogia scivola che ha preso a spallate Maurizio Crosetti ora e questa mattina su Repubblica, e io mi associo a queste spallate. Noto che invece ci finiscono diversi ascoltatori, magari anche quelli con cui parleremo. Così come Alex via SMS vuole ridere della nostra difesa dei calciatori, non si tratta di difendere a tutti i costi i calciatori, che comunque si rendono estremamente impopolari. Ripeto, è un grande autogol mediatico su cui i presidenti, ho l'impressione, stiano marciando per condurre magari proprio la battaglia politica contro Abete, di cui faceva riferimento Maurizio Crosetti, o comunque per i loro motivi. Sanno benissimo i presidenti che in questo momento chi rischia tutto dal punto di vista dell'opinione pubblica, dal punto di vista dell'impatto sui media, della simpatia, per usare una parola molto ampia, sono proprio i giocatori. Tra l'altro, notizia di ora, come sappiamo è l'estate caldissima delle vertenze sportive, no? Negli Stati Uniti c'è il lockout dell'NBA, in Spagna c'è, o meglio c'era, questo sciopero pure dei calciatori, che però è rientrato a quanto pare. Poi ci collegheremo più tardi anche con la Spagna, perché a quanto sembra invece in Spagna un accordo è stato trovato e dunque la Liga partirà. Tra le altre cose, oggi c'è anche stato l'appello di Sky: non tradite la fiducia dei tifosi. La posizione di Sky sulla vicenda: non intendiamo interferire su trattative in corso, ma serve responsabilità e dialogo. Beh, te credo, Sky è direttamente interessata a suon di milioni di euro quanto costano i diritti del calcio, che probabilmente in questo weekend non partirà. Non si tratta, dicevo, di difendere a tutti questi calciatori, però nemmeno di condannarli in maniera prioristica solo perché sono antipatici. Hanno dei diritti, ad esempio quello dei fuori rosa, questa sorta di mobbing legalizzato cui sono stati autorizzati fino ad ora i presidenti, e fa troppo facile ricordare le vicende Pandeveledesma in casa Lazio. Ebbene, su questa vicenda dei fuori rosa la mia sensazione è che i giocatori abbiano ragione. Michele da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io le volevo dire una cosa. Io sono indignato veramente per il comportamento di questi calciatori, perché non si può, come si fa a difenderli? Vendono le partite, vendono il campionato. Vabbè, ma aspetti, cosa c'entra, Michele? Ma perché mettiamo insieme? Vendono le partite, vendono i campionati, guadagnano tanto e quindi hanno zero diritti? Ma secondo lei hanno zero diritti? Non hanno nessun diritto? No, non è che non hanno zero diritti, però secondo me uno che guadagna già ha una paccata di soldi, deve andare in Russia per, e quelli per me non sono professionisti, sono dei mercenari e basta. Però io le volevo dire una cosa. Prego. Io la chiamavo per uno sciopero ben più importante, che nessuno, a cui nessuno ha dato risalto, magari nemmeno lei lo sa. Ieri sera il signor Renzo Olivieri si è incatenato, se lei lo sa. Beh, no, perché abbastanza. Perché ha abolito il patentito di seconda categoria abbastanza. E di prima categoria, e questa che è una cosa vergognosa. Anche queste cose qua dovete dar risalto a queste cose qua. Ma certo, si è svegliato una mattina un signore che si chiama Tavecchio, che chissà da chi ha manovrato, e ha detto aboliamo i patentini di seconda e di prima categoria. E le sembra una cosa giusta? Parliamo anche di queste cose. Sì, parliamone volentieri, anche perché è stata eclatante. Volevo accennarne anche con Maurizio Crosetti a questo altro gesto d'antan di Olivieri, che si è incatenato ai cancelli della Federcalcio. Però insomma, al di là dei patentini di prima e seconda categoria, che è senz'altro un problema per qualcuno, magari anche dal punto di vista economico, al di là di questo, insomma, non mi pare corretto affrontare la questione dicendo: allora, questi guadagnano tanto, vanno in Russia, mettendo tutti insieme, tutto nello stesso pentolone, vanno in Russia a guadagnare i soldi, non è un comportamento da professionisti ma da mercenari. Secondo me è un comportamento da professionisti, perché il professionista va dove sceglie di andare, di guadagnare di più, mette sul piatto la bilancia, come ha fatto Eto'o, l'ho detto nei giorni scorsi, e dal mio punto di vista capisco la sua scelta. Capisco la sua scelta e sono molto invidioso, non lo nascondo, come non ho nascosto prima Crosetti. Ha scelto di mettere sul piatto gli ultimi 3 anni di carriera da superstar per andarsi a seppellire ai confini dell'impero, calcisticamente, naturalmente. Lorenzo da Belluno, buongiorno. Buongiorno Carlo, un piacere parlare anche con lei, oltre che col dottor Gentini. Grazie. Allora, 3 domande veloci, vorrei anche un suo relativo parere. Allora, velocemente, se secondo lei l'Udinese a un certo punto della partita poteva inserire Pasqual, che garantiva più spinta? Quando? Quando secondo lei, Lorenzo? Quando? Sull'1-1 quando c'è stato il rigore, quei minuti lì che potevano anche spingere il risultato verso a favore dell'Udinese e anche inserire un certo Dennis, visto che comunque andava con l'Atalanta, vabbè, ormai si poteva giocare anche quella carta. Questa era la mia idea. Seconda domanda, non mi risponda sì come farebbe qualcun altro. Cioè, se ha senso che due nazioni come Italia e Inghilterra si giochino un posto in Champions, quando abbiamo visto degli scontri ieri tra delle nazioni con delle squadre che... È l'allargamento, Lorenzo, è l'allargamento voluto da Platini. È l'allargamento voluto da Platini, che insomma ha costruito la struttura della Champions League in modo da, appunto, da favorire la partecipazione di club che altrimenti non, e di nazioni, di paesi che altrimenti non ci arriverebbero. Per quanto mi riguarda, insomma, io sono per avere in questo torneo il più elevato tasso spettacolare possibile, quindi è chiaro che io preferirei vedere tutte le più forti in questo torneo, ma è questione di gusti. Così facendo andiamo a scoprire angoli dell'Europa che altrimenti non arriverebbero sotto questi riflettori e non beneficerebbero di questi introiti della Champions League, rimanendo pertanto confinati nel ghetto. Insomma, a me, io l'ho detto diverse volte, a me piaceva addirittura la Champions League con la doppia fase a gironi. Vedevamo un sacco di partite, probabilmente è vero, si giocava troppo ed è lo stress dello sport contemporaneo, probabilmente si giocava troppo, ma c'erano moltissime partite di alto livello. Insomma, io credo che questo debba essere il torneo d'élite, poi invece così com'è non è possibile, perché abbiamo gironi francamente molto più deboli. Dica Lorenzo, la terza? Ecco, la terza domanda, velocemente, io sono tifoso juventino, se la Juve già, adesso a seconda se c'è sciopero o no, rischiava di entrare in campo con Toni e Del Piero, visto che c'ha già delle assenze importanti. Quindi vorrei capire se è un discorso di preparazione, visto che ogni anno abbiamo questi problemi, e seconda cosa, se non sarebbe il caso di recuperare certi giocatori, perché mi sembra che negli ultimi anni la Juve, più che far crescere i giocatori, li sta un po' rovinando, ma penso che sia sotto l'occhio di tutti, insomma, che certi giocatori vanno persi, si stanno perdendo invece che fare come l'Arsenal che fa debuttare ma sa Lorenzo, sono stati commessi moltissimi errori nella gestione della squadra negli ultimi anni, è inutile tornare su tutti questi, sono stati buttati via anche un mucchio di soldi. Noto invece che la Juventus sta facendo di tutto per accontentare le richieste, per esaudire le richieste, o se volete chiamatele anche capricci del suo neo allenatore, e sta rincorrendo e ammassando e accatastando un sacco di esterni come Conte vuole. È arrivato il paraguagio, ne arriveranno degli altri e a quel punto le richieste di Antonio Conte saranno state totalmente esaudite. Io sono per gli allenatori che invece provano a un po' più duttili, che provano a fare con quello che hanno, insomma. Emiliano da Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare un attimo dello sciopero, soltanto una cosa che non è stata mai accennata, volevo sapere che ne pensate voi in studio. Praticamente i calciatori godono di un praticamente oltre al loro stipendio hanno anche il cartellino, e questo li rende parte del capitale sociale della società da cui vengono acquisiti. Perciò godono di doppio privilegio, non solo lo stipendio, che comunque quello è giusto per quello che fanno, per quello che valgono, sì, e per i soldi che portano, ma avendo loro un prezzo proprio come cartellino, questa è una cosa che non ha nessun altro. Cartellino che non esiste più formalmente, no? come formalmente arcinoto. Poi esistono dei contratti e questo è il nodo del contendere, cioè ci sono dei contratti che sono monetizzabili nella compravendita dei giocatori, no? Se il giocatore ha scadenza di contratto, sappiamo bene come non porti soldi nelle casse del club che lo ha fin lì stipendiato, e qui si gioca l'intera partita o buona parte della partita con la storia dei fuori rosa, con la storia degli allenamenti differenziati, eccetera eccetera. Cioè sinceramente io non riesco a, per usare il caso paradigmatico, quello di Lotito, no? Non riesco a dare ragione a un club che dice al giocatore: tu ti rifiuti, hai il contratto che abbiamo pattuito insieme senza che nessuno fosse costretto, il contratto è in scadenza, tu non vuoi rinnovare questo contratto, quindi il rischio di perdere il valore, e di conseguenza ti metto fuori rosa. Io trovo che questo atteggiamento sia da rivedere, e trovo che sia lecito per i giocatori pretendere una revisione di questo tipo di atteggiamento. Quanto invece al contributo di solidarietà, continuo ad avere l'impressione che sia un po' una questione sia un po' un falso problema, no? Adesso vediamo con questa mossa di Abete, che ripeto ha accantonato questo fondo di 20 milioni, la notizia è questa ed è delle 12:45, c'è questo consiglio della Federcalcio che è, insomma, permanente in pratica in questo momento, nel consiglio d'urgenza, il tentativo di risolvere i problemi. Fondo di 20 milioni per il triennio 2011-2013, che è destinato a garantire la Lega di A di fronte ad eventuali contenziosi sul contributo di solidarietà che è diventato terreno di scontro. Cos'è questo contributo? Lo spiega un'altra agenzia, anche se, insomma, sono questioni piuttosto complesse. L'idea di Abete per evitare lo sciopero è stata elaborata tra ieri sera e stamattina, quando il presidente federale ha prima incontrato il presidente Coni Petrucci e poi ha aperto appunto i lavori di questo consiglio fiume. Il fondo di garanzia sarebbe tutto da risorse interne alla Federcalcio, quindi non inciderebbe sui contributi alle altre componenti della federazione, né intaccherebbe la contribuzione del CONI. Ora la parola passa veramente alla Lega, che avevano posto come condizione la firma del contratto collettivo da parte dei calciatori sul pagamento del contributo straordinario di solidarietà inserito dal governo, eccetera eccetera. Dunque c'è questa mossa disperata, questa mossa della disperazione di Abete, che mette in campo l'ottavo attaccante e cerca di risolvere così con questo colpo di mano, con questa trovata, una partita ormai lunghissima che va avanti da moltissimo tempo. Sarei molto sorpreso se la questione a questo punto si sbrogliasse nel giro di poche ore. Enzo da Varese, buongiorno. A voi e grazie di avermi dato possibilità di contattarvi. Grazie a lei. Senta, io volevo dire semplicemente il mio punto di vista. sacrosanto il diritto dei giocatori di avere un contratto nazionale come qualunque altra categoria di lavoratori. Mm. Fa comunque ridere tutta questa questione, in quanto è, a mio avviso, uno scontro di potere fra, sì, fra, mi passi il termine, fra i poteri forti, cioè fra coloro che guadagnano tanto sia da una parte che da quell'altra. Chi ci fa le spese, naturalmente. Non c'è niente da passare il termine, Enzo. Ecco. È così, punto. È così. Uno scontro di potere, ma è una questione, è diventata ormai una questione abbastanza politica, quindi non fatico a credere che l'idea dei presidenti, che ripeto in questo momento hanno dal punto di vista mediatico il coltello dalla parte del manico, sia quello di andare fino in fondo al muro contro muro per scardinare magari i vertici della Federcalcio. Ecco, ma si immagini uno sciopero dei tifosi che non vanno allo stadio perché vogliono contrastare e far notare che questa politica non è una politica dello sport, ma è semplicemente una politica degli affari. Perché non facciamo sciopero noi tifosi? Beh, l'idea non è sua, ma di Massimo Gramellini, tra l'altro, o meglio anche di Massimo Gramellini. E se invece dei calciatori scioperassimo noi, se decidessimo di colpo e tutti insieme di diventare adulti, smettendo di delegare il nostro umore a bande di mercenari con procuratori al seguito? Per me è più facile, scrive Gramellini, ho la squadra del cuore in Serie B. Ma è come smettere di fumare, con un po' di sforzo possono farcela tutti. Il rischio in effetti è questo. Il rischio in effetti è, ma non è un rischio, è nella logica delle cose, cioè quello di allontanare ancora di più la gente dagli stadi. Penso sia fisiologico. Mi sembra che qui continuiamo a calcare i sentieri della demagogia, a meno a giudicare dagli sms 349-238-6666. I giocatori vivono dei diritti e nessun dovere, fanno quello che gli pare, alla fine vedi Cassano e alla fine gioca nel Milan ma le sembra giusto, scrive Luciano da Bologna. Mi sembra giusto se c'è il Milan che vuole Cassano, lo paga, gli fa un contratto eccetera, ma senza per questo essere costretto, senza per questo avere la pistola alla tempia. Poi vuole Cassano, lo gestisce come meglio crede e lo paga per i soldi che il mercato detta, insomma. Io continuo a non capire, cioè capisco l'invidia che è mia, è profondamente mia, no? Vorrei essere un calciatore strapagato, uno sportivo strapagato, non lo sono e faccio un'altra cosa, vivo di invidia. Capisco l'invidia, però continuo a pensare che gli stipendi dei calciatori, di tutti noi, siano scritti dalle leggi del mercato. In Italia, in Spagna, in America, ovunque. Antonio che scrive: trovo giusto che i presidenti possano dire ai loro dipendenti di lusso cosa devono fare e dove devono giocare e magari anche ridurli in catene. Antonio, ovviamente io forzo come forza lei, perché si tratta di dipendenti di lusso, allora devono obbedire a tutti i costi, quindi con regolare contratto possono essere soggetti a operazioni di mobbing come è capitato e quindi essere messi fuori rosa. Ah sì, non firmi per l'anno prossimo e io ti rovino un anno di carriera. Franco da Modena, buongiorno. Buongiorno, le chiedevo subito una cosa al volo, ma se mi sono collegato un po' tardi, poi faccio la domanda, ma secondo lei il contributo di solidarietà a chi deve essere carico? Il contributo di solidarietà è ancora qualcosa di eventuale. Guardi, le leggo l'idea, non mia, ma di qualcuno che ne sa molto di più, come Viktor Ukmar, che ieri ne ha parlato di questo eventuale contributo di solidarietà e ha detto: nella situazione drammatica in cui siamo bisogna saper accettare anche sacrifici sperequati indegni di uno Stato di diritto. I calciatori dovrebbero sentire il dovere etico di pagare il cosiddetto contributo di solidarietà. Tuttavia, da un punto strettamente legale, prosegue Ukmar, ci sono molte probabilità che i calciatori non siano tenuti a pagare il contributo che invece ricadrà sulle società di calcio. Tutto dipende da come la manovra bis configurerà questo prelievo. Continua Ukmar, se volete vi leggo anche il resto dell'agenzia: se il contributo sarà configurato come un'aggiunta all'IRPEF, questo sarà a carico delle società. Eccetera eccetera, questa è la sua posizione. Mi sembrano questioni tecniche. D'altra parte i calciatori non hanno mai detto di non voler pagare questo contributo di solidarietà. Franco da Modena voleva dire qualcos'altro? Sì, no, ecco, io glielo dicevo perché allora alla stregua di ciò anche un dipendente normale in un'altra azienda non lo dovrebbe pagare, quindi glielo dovrebbe pagare la società. Cioè io non vedo molta differenza tra un calciatore e un dipendente. Sì, però mi sembra Franco che comunque questo nella questione dell'avvertenza dei calciatori sia un problema secondario. Mi pare invece che siano più un problema un po' di facciata. Mi sembra che siano un po' più stringenti gli altri due problemi, che sono quelli relativi a come ben sappiamo, ai fuori rosa e a questi allenamenti differenziati, eccetera. Insomma, i giocatori chiedono di essere tutelati nello svolgimento della loro professione. Questa storia di contributi di solidarietà, che peraltro è anche difficile da inserire in un contratto collettivo oggi, non essendo ancora, allo studio, non essendo ancora approvato, mi sembra una questione ancora piuttosto fumosa, no? Per essere decisiva. La mia domanda, il mio spunto era però nato da questo. Io sono d'accordo sul fatto che i calciatori devono difendere il fatto di non essere messi fuori rosa, perché non è, come dice lei, il denaro che quantifica il fatto se uno possa essere soggetto a mobbing o meno. Però la mia domanda è questa: secondo lei è giusto, per come si svolge il contratto dei calciatori, che i calciatori siano dei dipendenti e non più dei professionisti? Perché cambierebbe molto tutta la logica sottostante, capito? Cambierebbero tante cose, e quindi secondo me i calciatori, per come sono configurati adesso, dovrebbero essere considerati dei professionisti. Sì, è vero, possono anche essere contratti a tempo determinato che variano di anno in anno, però mi sembra un po' tirata. Cioè, vuol dire un attore non è. Hai capito? Stiamo parlando di forma giuridica del contratto. La discussione è molto complessa ed interessante. Secondo me sarebbe questo il nocciolo. Sono d'accordo. Anche secondo me potrebbe essere questo la base su cui discutere, sul serio. Franco, io la ringrazio. Non so sviscerare in questo momento la questione, però anche dal mio punto di vista dovrebbero essere considerati dei professionisti. Resta il fatto che ci sono questi diritti su cui ci troviamo d'accordo, questi diritti vanno tutelati, anche se guadagnano un sacco di soldi. Andrea da Milano, buongiorno, dica. Sì, buongiorno. Senti, io la chiamavo per la questione patentino agli allenatori prima, seconda e terza categoria. Premesso che sono contrario a queste corporazioni, inclusa anche quella dei giornalisti, anche se non c'entrano in questo caso, eccetera. Ma qui stiamo parlando di corporazioni, di allenatori di prima, seconda e terza categoria che sono... Primo, di quattrini in queste categorie non ce ne sono più. Poi si cerca semplicemente di difendere dei diritti, perché ci sono delle società che purtroppo devono avvalersi per forza di questi patentati, tra virgolette, per portare a casa quattro quattrini, quando in realtà questo sistema è scoppiato, perché non esiste più di quattrini in queste categorie, non ce ne sono più. Poi si cerca semplicemente di difendere, di arrogarsi questa titolarità di un patentino, ma qui c'è gente che allena queste società dilettantistiche, che lavora da mattina a sera, che non ha tempo neanche di pensare di andare in federazione a fare un patentino, che ci vogliono due mesi, frequentare tutti i giorni, ma per che cosa poi? Per nulla. Questo è un calcio puramente dilettantistico, non c'entra nulla. Premesso che io pulirei anche quelli di Serie A, perché non hanno senso. Sì, in parte è vero, Andrea, in parte è vero. Sinceramente la questione di chi va in panchina in prima, seconda e terza categoria mi interessa davvero poco, le dico la verità, mi interessa davvero poco. Mi interessa invece di più, ad esempio, che abbia un percorso formativo serio chi allena le giovanili. In quel caso io lascerei stare il dilettantismo, in quel caso soprattutto ad alto livello preferirei il professionismo, perché altrimenti no, poi siamo qui tutti a dire modello Barcellona. Uno dei problemi principali, secondo me, dei vivai italiani sta nel fatto che con il disinvestimento che è stato fatto, i vivai italiani non solo nel calcio sono finiti in mano spesso a ragazzini che costavano due soldi e che magari non avevano la preparazione necessaria. Quindi questa mi sembra una questione, su chi va in panchini in prima, seconda e terza categoria, questa mi sembra una questione abbastanza di retroguardia. Io vado in Spagna, volo in Spagna subito invece, perché lì invece si gioca. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Com'è sta storia? Che lì si gioca? La prima è saltata, la seconda si gioca. Insomma, adesso poi secondo me hanno fatto di necessità virtù, nel senso che far saltare anche la seconda giornata comprometteva duramente il calendario. Non c'era posto, anche se a un certo punto, secondo me, la soluzione era stata trovata: far giocare la Coppa del Re in gara secca e non andata e ritorno. Secondo me è cosa da trasformare immediatamente. Però in realtà sembrava chiaro che non si potesse andare avanti ancora con lo sciopero, e lo sciopero è stato revocato. Qual è la tua posizione? Mi sembra che le basi delle richieste dei calciatori spagnoli non fossero molto diverse da quelle dei calciatori italiani. Qual è la tua posizione? Io sono Io sono d'accordo, sono pro sciopero e in questo senso, no, secondo me le basi sono un pochino diverse. Qua in Spagna ci sono, le squadre hanno accumulato oltre 50 milioni di debiti con i giocatori, che mi sembra una cifra esorbitante. Sono oltre 200 giocatori, diciamo, che hanno diciamo, crediti nei confronti delle squadre, e soprattutto c'è questa legge commerciale che qua si chiama ley concursal, alla quale le squadre possono, diciamo far ricorso, che permette di spalmare i debiti, alcuni diciamo ridurre gli stipendi. Era stata creata dal governo Zapatero per far fronte alla crisi per delle società appunto commerciali, e poteva avere un senso, anche se non è chiarissimo, comunque poteva avere un senso per evitare che diciamo fallissero tantissime società. E le hanno prese quelle delle squadre di calcio, e cosa fanno? Ricorrono a questa legge e non perdono la categoria, né in Italia, né in Inghilterra, né in nessun altro paese importante a livello calcistico. Una cosa del genere è permessa, se sì. Non hai soldi non ti iscrivi, sì. Per cui le basi secondo me sono un pochino diverse, sì. E il fatto di poter ricorrere a questa ley concursal, per cui non paghi più gli stipendi arretrati o li paghi chissà a babbo morto, sì. Questo provoca dei problemi, anche perché, e poi chiudo, il sistema di pagamento in Spagna è molto peculiare. Se tu, facciamo conto che tu guadagni 100.000 euro l'anno, diciamo, no, come calciatore, cifra X, ti danno magari 2.000 euro al mese, che ne arrivi a 24, e poi quelli che restano te li danno in un'unica soluzione o al massimo in due. E quindi è chiaro che se tu non hai i soldi, paghi le mensilità, dopodiché a fine anno dici no, mi dispiace, non ce li ho, poi vai alla ley concursal e paghi in 5 anni. Cioè, non si può fare, perché i contratti li fanno le società. Allora, sai, si dice sì, la Liga è il miglior campionato del mondo, arrivano tutti gli stranieri, vengono qua. Bravo, se fai il contrattone e poi non li paghi, sono capaci tutti. Ti dico un ultimo dato agghiacciante, secondo me comunque interessante. Mi ha detto Rubiales, che è il Tommasi spagnolo, nel campionato appena finito 2010-2011, in regola con i pagamenti, in Liga di 20 società ce n'erano 5. Mamma mia. Allora sai, 5 club? 5. Insomma, qualche ragione ce l'avevano, anche se sono i soliti calciatori viziati e stramiliardari. No, perché lì, vedete che qualche ragione ce l'hanno. Però Carlo, dimmi. Non sono i calciatori, cioè, allora, l'appoggio viene dai viziati supermiliardari che fanno i sindacalisti, ed è un bel gesto. Ma qui stiamo parlando di dei poveracci. No, ma chiaro. Poveracci, vuol dire, magari guadagna anche 10 volte quello che possiamo guadagnare noi, però lo guadagnano anche per 4 anni, 5 anni, 10 anni. Cioè. No, ma sicuro, Filippo, ma questo discorso. Cioè, ma questo discorso la società firma un contratto, ha firmato un contratto. Esatto, appunto, penso che sia praticabile anche in Italia, no? Perché anche qui è chiaro che c'è il top level, però il discorso riguarda tutti quelli che fanno questo fortunatissimo mestiere. Filippo Maria Ricci, prima di una domanda sulla Fer Mourinho, di cui scrive oggi sulla Gazzetta dello Sport, volevo chiedere anche come in Spagna è stata presa la questione, come El Pueblo, come la gente del calcio ha preso questa astensione dalla pedata. Beh, ovviamente diciamo c'è un po' di sconcerto, però in tanti hanno capito, perché comunque, voglio dire, qui non so, il Rayo Vallecano, facciamo un esempio, appena terza squadra di Madrid, appena promossa in Serie A, tutto l'anno scorso non hanno preso una lira di stipendio, sono riusciti a farsi promuovere, vengono su e l'allenatore gli dicono guarda, se dice sì o se vuoi rimanere ti taglio lo stipendio del 70%. Cioè, quanto guadagnerà Sandoval? Cioè, vuol dire, adesso, poi comunque non si fa così, e in questo la gente è stata, ha mostrato una certa pazienza, una certa solidarietà, non ci sono state tante posizioni per lo sciopero dei miliardari, no, perché si sa bene che sì, da una parte sono miliardari, ma c'è tanta gente che di soldi non è che ce n'ha molti, quindi la seconda giornata già cominciava un po' a tremare, cioè, la solidarietà nazionale stava venendo meno, e quindi forse anche per questo hanno trovato poi un accordo, però la prima è stata digerita, mettiamola così. Pensa come sono educati i miei ascoltatori in alcuni casi. Ma chi se ne frega dello sciopero dei calciatori, parli della Supercoppa spagnola merdaccia, mi scrivo. Ah, grande, la Supercoppa spagnola, però quella è già finita da una settimana. Forse pensavo quella... sai, sullo sciopero dei calciatori, però la Supercoppa spagnola e le ditate nell'occhio intrigano sempre. Vogliono vogliono il sangue. Vogliono il sangue. L'ascoltatore era il sangue. C'era l'insulto, quindi va bene. Allora noi rispondiamo all'insulto. Sarà con, caldo anche con... l'inverno, oltre a questa fine estate. Non se ne può più, mettiamola così. Il sei Classicos nel 2011 ci hanno sfinito tutti. Secondo me per prima hanno sfinito Mourinho. Però in realtà Mourinho è stato sfinito dal classico, da quello prima di questi sei, che è il 5-0. Non si è mai più ripreso. Questa è la mia, il povero José non si è mai più ripreso. Sì, poi cerca in qualche maniera di arrabbiare. E poi la cosa più clamorosa è che voglio dire, lui no, ha sempre parlato tanto, un po' anche per mascherare certe magagne. Adesso che è il momento in cui il Real Madrid gioca meglio di sempre, il suo Real Madrid ha riuscito a trovare, cioè lui è andato in campo nell'andata con gli stessi 11 della manita, quelli che hanno perso 5-0, che ha fatto un'ottima partita col Barcellona. E al ritorno qua riesce, arriva un passo dai supplementari e magari poteva anche vincere poi i supplementari perché la materia è molto più fresco, stavano giocando benissimo, poi si trova di fronte Leo Messi e poi invece di arrendersi di fronte purtroppo per lui alla magia del campione mette il dito nell'occhio a quel poveretto, cioè voglio dire, allora lì non è impossibile da seguire, però proprio adesso che quasi che ce l'aveva quasi fatta insomma, no? Ha ridotto tantissimo, se tu pensi alla distanza siderale che c'era no, quando lui ha solo di attitudine quando scende in campo nell'andata di Champions tutti dietro con Pepe lì a legnare, Cristiano Ronaldo che contesta il suo schieramento eccessivamente difensivo, adesso giocano a viso aperto, giocano bene. Perché deve, perché lo fa? Perché ha perso la testa. Non ci sta più dentro, non ci sta più dentro. Deve mettere il dito nell'occhio da dietro, poi davanti a Boratta. Ma ascolta, come scrivi tu, il popolo del Real Madrid è con Mourinho, ma questa voce secondo cui il suo portavoce ha detto vuole andare No, poi ti dicono di no, sto telefono, non si ma anche lì. Allora, com'è sta storia? Queste cose succedono sempre, c'è sempre di mezzo Mourinho. Sarà un caso o no? Cioè, no. Sono sempre con lui. Ma quale e caso? Guarda, sta storia del telefono lasciamo perdere, so, io non ci so, è un mezzo intrigo, ma in generale il mal di pancia c'è. Però non voglio dire, il potere assoluto, anche quello, e l'abbraccio del Bernabeu c'è, un po' violento, un po' come il nostro ascoltatore di prima, perché appunto dice no, il tuo dito ci segnala il cammino, no? Era lo striscione migliore. Però è molto semplice, se vogliamo possiamo spiegarlo anche quello in due parole. Qua entriamo anche in un campo politico, no? Per cui che la squadra migliore del mondo sia il Barcellona, quindi no, rappresentante non solo della Liga ma anche della Catalogna, sul cui impero non tramonta mai il sole. Esatto, allora al madridista medio dà molto fastidio. Certo. Fastidio uno a livello calcistico e due a livello nazionalistico. Ce ne sono tanti, questa è una parte importante. La Spagna è molto divisa sull'argomento. E quindi dice, guarda, adesso si sono tutti affidati a Mourinho perché pensano che sia l'unico che può smantellare questo giochino come il grande Fabio Capello fece col Barcellona di Rijkaard. Solo che Capello è arrivato, bene vidi vici, tac, con una squadra ridicola, gli ha smontato il giochetto e ci hanno messo 2 anni per ricostruirlo. Mourinho adesso ci sta provando, più o meno gli è andato male, però il madridista medio, un po' così appunto, un po' violento, un po' dice qua tutti con lui e in questo gruppo c'è anche Florentino Perez, quella è la grande sorpresa. Certo. No, ma è tutto facilmente comprensibile. Ho l'impressione che in questo caso, in questa situazione che si è venuta a creare, il peso sia eccessivo perfino per uno come Mourinho. Ho l'impressione che il peso sia eccessivo perfino per uno come lui. Ma il peso però se l'è preso lui. Assolutamente. Perché ha voluto mandare via Valdano, ha voluto praticamente mettere in silenzio Florentino Perez, che sai qui è diventato praticamente è veramente il Real Mourinho. Però poi non si è reso conto che l'entità pesa, perché no, il club migliore del siglo XX pesa, no? Del XX secolo, e lui è lì, infatti insomma, si vede che non... Sull'orlo di una crisi di nervi. Sull'orlo si è cazzato quel pochetto. Forse oltre l'orlo di una crisi di nervi alla faccia di Pedro Almodovar. Grazie Filippo! A voi un abbraccio. Grazie a Filippo Maria Ricci dalla Spagna, Moreno, provincia di Milano, Paolo da Brescia. Poi ci sentiamo domani dalle 2 alle 3, parleremo ampiamente, già ve lo dico, dei mondiali di atletica, domani pomeriggio, dei mondiali di atletica che vanno a cominciare sabato. E nel weekend, a prescindere dallo sciopero dei calciatori, noi ci saremo sabato dalle 5 alle 6 e domenica dalle 5 alle 7 del pomeriggio, naturalmente, come è sempre stato e come sarà per tutta la stagione. Noi cominciamo, i calciatori vedremo. Moreno, provincia di Milano. Dottor Genta, buongiorno. Buongiorno. Una cosa, io ho sentito che Abete ha parlato praticamente di un fondo di 20 milioni che mette, sì, a disposizione di garanzia. Di garanzia. Aggiungo anche, c'è un'agenzia di pochi istanti fa, Abete, che dice la Federcalcio si è resa disponibile a garantire un fondo interno di 20 milioni di euro per il triennio 2011-2013 per eventuali contenziosi sul contributo di solidarietà. Quindi Abete rende ufficiale questa notizia, che era ufficiosa, e dice anche: attendo i riscontri da parte della Lega di Serie A. Quindi adesso la palla passa alla Lega di Serie A, se la situazione è risolta bene, altrimenti non si gioca. Dica. Sì, però il problema di fondo, qualcuno deve spiegare ad Abete che la Federcalcio non è una sorta di finanziaria, prende i soldi dal CONI, che a sua volta dipende dal contribuente. Quindi di conseguenza quel fondo di 20 milioni che Abete mette a disposizione in realtà verrà tirato fuori dallo Stato italiano. No, attenzione, attenzione. Allora, qui io sono in grado solo di darvi le notizie riportate dalle agenzie, non di entrare nei dettagli, anche perché non c'è entrato ufficialmente nemmeno Abete. Però, a quanto si sa, questo fondo di garanzia della Federcalcio, come ho detto prima, sarebbe tutto da risorse interne, quindi non inciderebbe sui contributi alle altre componenti della federazione, né intaccherebbe la contribuzione CONI. Quindi vengono accantonati da risorse interne e sono un fondo di garanzia, ripeto. Quali siano i passaggi tecnici della questione, come ciò avvenga, io non lo so e quindi non me lo domandate. Al momento non lo so perché la notizia è in pieno divenire. Paolo da Brescia, buongiorno. Buondì. Dica. Quando si parla di Mourinho mi viene solo da vomitare l'anima. Meno male che ce la siamo tolti e che non ritorni più in Italia. Ma volevo scusi, Paolo, mi perdoni, ma la linea era un po' disturbata, quindi non ho sentito bene quello che ha detto. Me lo può ripetere? Volevo dire che quando si parla di Mourinho, sì, mi viene da vomitare l'anima, perché è una cosa deplorevole. Del genere sia così importante quando è ignorante come le zappe, è una cosa devastante, è la persona più ignorante che abbia mai conosciuto, gli danno ancora una certa sull'ignoranza, sull'ignorante non mi sembra neanche l'aggettivo più corretto. Ignorante perché? Ignorante è uno che non sa. Mourinho, sì, esatto. mi sembra invece un uomo di grande intelligenza. Poi se sia maleducato, certamente sì. Se sia villano, certamente sì. Se sia presuntuoso, assolutamente sì. Possiamo trovare altri aggettivi più corretti. A lei, per esempio, è molto antipatico e questo ci sta. Dica. È una bestialità. A me che andava molto di capire che forse io sono da 52 anni tifoso del calcio, della Juventus, sì, e quando inizia il campionato è una cosa bellissima, la domenica, il sabato, il litigio con gli amici, sì, lo sfottò. Però dico, siamo in un momento, tutti gli anni lo diciamo, ma quest'anno veramente se pensiamo che la borsa ha perso un 40%, che gli operai, da settembre forse qualcuno sarà fuori davvero dalle aziende. Stamattina ero in banca a Brescia, il direttore mi ha detto: guarda che forse qui le aziende chiudono, gli operai se ne stanno a casa, non hanno i soldi per pagare il mutuo. Sembra di fare discorsi da stupidi, ma col calcio chi ce ne frega, facciamo a meno, e questi signori incominciano alle 6 di mattina, alle 5 sì, e mezza. Ma questo è tutto legittimo, come scrive mi sembra che grande veramente questi signori non sanno di che, probabilmente quello che prendo io in un, mi perdoni, poi sì, in un mese questi signori in un anno, mi perdoni, questi li prendono in un giorno, sì. Ma io sono un calciatore, non sono per l'amor del cielo, però non sono Paolo, neanche, è tutto legittimo, ma Paolo, ma è tutto legittimo, ma questi signori, ma scioperino davvero, scioperiamo noi, non li guardiamo più, ma questo veramente è del tutto fanno legittimo, schifo, fanno veramente vomitare gente che prende 4 milioni all'anno. Lo so Paolo, però lo so, anch'io sono molto invidioso, e lo dichiaro pubblicamente, sono estremamente invidioso di questi, però torno a ripetere, se provo a ragionare in maniera un po' più fredda, questi stipendi multimiliardari nel mondo dello sport li scrivono le leggi del mercato. Ahimè, la prossima volta che nasco ci provo davvero a fare il calciatore. Grazie a tutti voi, ci sentiamo domani dalle 2 alle 3. Io ringrazio Alessandro Balia, in redazione Fabio Cantadori, in regia. Ciao a tutti.